Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, sono le 8 e 18 minuti. Siamo due uomini in perfetta sopramedia. Noi. In perfetta sopramedia dal punto di vista del contributo demografico. Esatto, due figli, io, due figli Oscar, almeno... Due Oscar. Due no. No, naturali, no, in giro per il mondo. Non... Ma guarda, posso dirti, magari li avessi. No, non... ma come? Ti dirò la verità, sicurati, magari li avessi, perché però non ce l'ho, purtroppo. Due. Però il mio contributo, siamo ben sopra la media. Nel 2015-2016, quando si toccavano i picchi negativi di anno in anno, ho tentato di darlo al mio piccolo, usando delle parti. Noi ce l'abbiamo fatta. Eh sì, noi facciamo qualcosa che non si fa più, come... Come? E come fare i figli e i prodromi dell'attività necessaria. Comunque volevo dirti che non a caso, perché poi io malgrado la mia vegliarda età, appunto due figli, uno del 2015 e uno del 2016, perché? Ma perché il calendario liturgico mi dà una mano, come sempre, sai che santo è oggi? E non ci credi, vero, che anche oggi è una Santa Teresa Margherita? No, e invece Margherita, una Santa Teresa Margherita, anche io. Santa Teresa Margherita. Ma vale più Teresa. Beh, lo so, però il problema è che lei ha scelto Margherita e infatti Santa Teresa Margherita Redi è una toscana di Firenze, carmelitana, è morta nel 1670 in odore di santità, malgrado una morte da giovanissima per peritonite, il corpo emanava le fragranze e ancora oggi è sepolto lì alle carmelitane di Firenze. Ma per dirti che le margherite sono così dovunque, come nei prati, per la primavera, tac, ci sono le sante, così. Oltre a questo si festeggiano i nomi di Perpetua e Felicita, cartaginesi, martiri sotto Settimio Severo, Ardone, Basilio, Agato d'Oro, Etereo. E comunque oggi per me è un giorno che ricordo con particolare così dolore, perché nel 1999 rimasi molto colpito per la morte di quello che a mio giudizio, io rispetto l'opinione di ciascuno, ognuno ha le sue preferenze nel cinema eccetera, però io per esempio considero Stanley Kubrick, che ci ha lasciato nel 1999, il più grande, se non proprio per me il, poi capisco alcuni possono dire no, ma per me è l'autore straordinario di film come Strano Amore, Arancia Meccanica, 2001 Odissea nello spazio, Eyes Wide Shut, è stato il cinema, ecco. E a fare gli anni oggi sono Luciano Spalletti, ti sta simpatico Spalletti? Beh sì, sono... anche secondo me è abbastanza simpatico in questo variopinto mondo degli attori italiani, che pensa, condivide la gloria del compleanno con, perché era il compleanno di Alessandro Manzoni. In compenso, ancora una volta gli arbitri decisivi, non sì, solo nelle partite della Juventus, no, ma cosa dici decisivi. Oscar, ma sei decisivi, impazzito, mica ho detto che sono decisivi, perché come è noto, perché fischiano come tutti gli arbitri, no, perché falciano gli attaccanti della Juventus con una quindi per questo, però siano decisivi per l'elezione di Tavecchio. Decisivi, l'ho visto per Tavecchio, avevo detto verrò eletto col 54% dei voti ed è stato eletto col 54% dei voti. Ho capito, ma questo perché capo della Federcalcio, che Lotito compra, Lotito sa far bene i conti, insomma. Sì, sa far bene, va bene. Ok, no, avevo capito male. Allora, no, Lotito sa far bene i conti, sì. Signori, intanto vabbè, ma a me ha colpito leggere che in un anno sono nati solo 474.000 neonati, secondo l'Istat, e secondo il Foglio e illustri demografi come Golini, arriveremo a un'Italia di 45 milioni di abitanti, non si fanno più figli. È subito partito il dibattito, non si fanno più figli perché non ci sono i soldi, non c'è il lavoro. Non dite che non si fanno i figli per la crisi, non si fanno perché sono una responsabilità. C'è chi ha messo in mezzo gli aborti, cioè stiamo parlando di statistiche, come dire, con centinaia di migliaia, proiezioni decennali, e gli aborti che sono diminuiti peraltro negli anni. Però questo non bisogna ricordarlo, no, perché agli occhi di chi solleva l'argomento il problema è che siano possibili, ecco. Comunque siamo in Italia sempre più di vecchi, questa è la verità. Di vegliardi, mi pare di capire, sì. Età media 44 anni e 9 mesi, io l'ho superata. Io pure, abbondantemente, quindi siamo ormai espressione di un'Italia che infatti poi anche nel suo welfare, nei suoi ascensori sociali, nell'utilizzo del, dei miliardi pubblici, infatti il peso preminente anche in chi vota, i partiti lo sanno, no? Sì. Che il peso preminente è quello di chi ha più età e quindi pensano a loro. Ma certamente non si fanno delle politiche per i giovani per permettere di pianificare il futuro, però non è che c'è una, come dire, una motivazione valida, no, per tutti, c'è una, ognuno ha la serie sua. Di concause . E naturalmente le monocausalità in questo argomento sono da vietare, perché come sì. Evidente, però diteci anche cosa, perché sennò la monocausalità fondamentale è una, cioè non vorrei dire cioè non si fa, dillo, non si fanno figli perché? Beh, c'è un atto prodromico che è necessario prima. Sì, esatto. Comunque 800 24 0024, telefonateci e diteci la vostra. Ti ricordi, Oscar, che noi abbiamo detto però che vogliamo tenere sempre i fari accesi sulla vicenda del terremoto, i terremotati, sì. Persone che hanno passato tra l'altro un inverno, adesso arriva lentamente la primavera, però diciamo diverso da quello che era stato loro promesso. Esatto. Con noi c'è il sindaco di Città Reale, che è confinante con Amatrice, si chiama Francesco Nelli. Sindaco, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sei in provincia di Rieti. Allora, ieri Repubblica raccontava di questo mistero di un villaggio addirittura che sarebbe già pronto, impacchettato al porto di Livorno per 400 persone da ospitare, 14 palazzine, 5.000 metri quadri. È a Livorno, ma la burocrazia lo fermerebbe e interesserebbe anche Città Reale. Dovrebbe arrivare lì, lei ne sa qualcosa? Sì, allora, intanto cominciamo col dire che di ufficiale non è mai arrivato nulla. Qui l'unica cosa è stata una telefonata dal sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che diceva: guarda Francesco, ho una possibilità di alcuni container, non li ho mai visti io personalmente. Mi farebbe piacere se tu li potessi ospitare in parte nel tuo comune, in parte in un altro comune che, cioè, dopo Città Reale, che si chiama Posta. Noi avevamo detto, ovviamente, avevamo dato ovviamente la nostra disponibilità. Tra l'altro noi abbiamo ospitato il centro operativo avanzato dei Vigili del Fuoco, cioè tutti i Vigili del Fuoco che avete visto lavorare ad Accumuli, ad Amatrice, dormono dal 24 agosto a Città Reale. E quindi chiaramente, come dire, è sceso il numero di vigili, l'area è stata ridimensionata, quindi lo spazio intorno c'era, era utilizzabile, quindi ci siamo messi insomma a disposizione su questa cosa. Dopodiché non abbiamo avuto altre novità. Da una chiacchierata che ho avuto con il presidente dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile, Carmelo Tolumello, ho saputo che lì è stato fatto un sopralluogo con due dirigenti, uno del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e uno dell'Agenzia Regionale, che praticamente hanno visto che questi container intanto erano ispezionabili solo da un lato, nel senso che erano messi dentro i container quelli di nautici, insomma, quelli da 20 Sì, sono al porto di Livorno, quindi sono E praticamente erano ispezionabili solo da un lato. Da quello che insomma ci hanno detto questi dirigenti, non erano in buone condizioni, tutt'altro. E quindi insomma questa sarebbe poi la verifica da fare. E oltretutto ci sarebbe stato il costo dello smaltimento dei 37 container. Sì, insomma, qui c'è sempre quindi, però noi abbiamo, abbiamo raccontato, sindaco, che anche nei giorni scorsi, quante casette sono arrivate da voi per ora? Allora, da noi nessuna, ma c'è un motivo. No, da noi nessuna, ma c'è un motivo, perché ovviamente per la Regione Lazio abbiamo cercato di dare la precedenza ad Amatrice Accumuli, perché quello che noi abbiamo detto fin dal 24 agosto è un giorno non è un conto è non avere proprio più la casa, perché è crollata, un conto è avere la casa lesionata e quindi bene o male in qualche modo uno può organizzarsi e quindi per non ingolfare il sistema dà la precedenza. Sì, anche perché dovete tenere in considerazione il fatto che noi parliamo di due comuni, in realtà lì è tutta la stessa comunità umana, ma è chiaro. Chi vi parla è sposato con una signora della Matrice e quindi è lo stesso gruppo umano, nel senso, quindi è chiaro che insomma, il 24 è stata una tragedia di immani proporzioni. Si è tentato di favorire, se questa parola insomma una sezione genere può essere usata, la Matrice d'Accumuli. No, vabbè, però insomma mi pare di capire, Oscar, che insomma anche questi container ci sono, ma in realtà non sarebbero in buone condizioni, anche un po' il mistero di... Allora, qui secondo me la cosa interessante sarebbe capire, e questo io non lo so perché in realtà non so neanche il nome del donatore, se c'era voglia di disfarsi di questi container. Questa sarebbe straordinaria la ciliegina sulla torta, la ciliegina, esatto, quindi magari perché da noi, insomma, io dal 24 agosto ne ho sentite e viste di tutti i colori. Sì, sì. E magari ho visto poca attenzione rispetto a quelli che potevano essere alcuni temi interessanti. Il fatto che noi oggi, a distanza di più di 6 mesi, ancora parliamo del terremoto è una cosa fantastica, della quale io vi ringrazio, perché il nostro terrore era quello di essere dimenticati, di non purtroppo avere l'occasione di poter informare le persone. È chiaro che da noi adesso c'è un tema importantissimo, che è quello della seconda casa. Coloro che hanno la seconda casa inagibile, nelle more della ricostruzione, non torneranno a Città Reale, non torneranno ad Amatrice. Per noi è l'economia, è una tradizione, esatto. È una tradizione storica. Io sto chiedendo con forza la possibilità di far mettere delle strutture temporanee, mobili, amovibili, definiamo una cubatura massima, definiamo un modello di vita, come volete, a spese dei privati, ovviamente. Mm. In maniera semplice e veloce, quindi anche a zero burocrazia, cioè facciamo un progetto, facciamolo al genio civile, poi uno si attiene a quello, sì. Però non possiamo perdere l'occasione che le persone tornino. Zero burocrazia in Italia, insomma, mi sembra una cosa un po' una richiesta. Guardi, però io le dico che in questa emergenza ho imparato, no, ma è chiaro, dovrebbe ho imparato che se si vuole si può fare. Noi abbiamo costruito a Città Reale una scuola temporanea in 26 giorni, temporanea non è nulla, perché poi se la viene a vedere una scuola, se la venite a vedere una scuola meravigliosa, fatta con donazioni private, e siamo riusciti in 26 giorni dal sbancamento all'avere le chiavi ed entrare. Sì, l'abbiamo raccontata questa storia. Esatto, è proprio questo che colpisce e purtroppo fa dare le testate al muro a tutti noi. Cioè, esatto. Se si tratta di organizzare forme private, cioè i tempi diventano brevissimi. Quando è la macchina pubblica, la somma di protezione civile, il commissario, lo Stato, eccetera, eccetera, le gare, tutto deve essere fatto, tutto come vogliono loro, ma passano i mesi, no, gli anni. Ecco, questa è lo iato tra questa cosa, essendoci la gente di mezzo, le case abbattute, l'economia in ginocchio, la differenza del tempo diventa una cosa purtroppo che fa la differenza. Fa la differenza tra un intervento che consente di contenere i danni ma non li fa divenire permanenti, col tempo diventano invece permanenti, insanabili, la gente non torna, le attività non ripartono. Questo non devo dire a lei, lo spiego a chi ci ascolta, certo, che quello certo. Che ci ha appena detto dei 26 giorni rispetto ai container, di cui non riuscite a sapere neanche da fonti ufficiali, si sono validi, davvero, ecco, ecco, dà l'idea della distanza incolmabile tra il tempo che significa la vita o la fine della vita per quella comunità. Comunque, sindaco, noi la ringraziamo. Ecco, terremo sempre i fari accesi sulla questione sulle zone terremotate. Francesco Nelli è il sindaco di Città Reale, provincia di Rieti. Grazie per essere stato con noi e ci tenga aggiornato, ecco, su quello che grazie, succede. Grazie di buona cuore. Giornata, ovviamente. Buona giornata a voi. Qui, caro Oscar, vedi che chiamano in tanti la questione dei figli. Certo, com'è che l'hai chiamato tutte le monocause, no? Sì, beh, insomma, certo. Le per spiegazioni monocausali. Fanno... Ognuno giustamente ha la spiegazione propria del perché non fa figlio, perché non li vuol fare, non so. Daniela ci chiama da Latina. Buongiorno, Daniela. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi sembra un po' scontato, però... Fa sempre piacere. Ti accompagnate tutti i giorni al lavoro, quindi è un piacere. In questo momento non riusciamo a entrare in studio perché abbiamo allargato le codette dei pavoni che abbiamo dietro. Quindi... Mi fa piacere di avervele fatte allargare. Ci dica, Daniela. Il discorso è semplice riguardo al problema dei figli. Io ho 34 anni, faccio il medico di mestiere. E sono una donna, non è una cosa semplice da gestire. Appartengo anche alla schiera di quelli che erano scappati dall'Italia e poi sono tornati a lavorare qui. Ci vuole coraggio, ci vuole tanto, perché in stati come quelli che stanno al di là dei nostri confini, per esempio la Francia, io ho lavorato lì, il lavoro del welfare è straordinario per promuovere la famiglia. E allora ci sono gli asili nido, ci sono tutta una serie di agevolazioni alla famiglia con più figli, e quindi tutta quanta una parte della popolazione si sposa giovane, in età giovanile, al termine degli studi, hanno due, tre figli a famiglia, viene promossa una politica familiare che gli permette di gestire un lavoro anche difficile, se vogliamo, e fare figli. e fare sì. Dice, in Italia, hanno... in Italia no, non ha trovato tutto questo. Assolutamente no, perché andiamo poi a guardare quello che è la politica che dovrebbe supportare e sopportare gli sforzi della famiglia. C'è una giovane donna che ha fatto una carriera universitaria, sì, professionale importante, e ha un lavoro che occupa gran parte della giornata, e ha necessità di strumenti per poter... Non ci sono. Ci sono totalmente assenti, gli strumenti si trovano all'interno però... della stessa famiglia. No, esatto, c'è cioè, soluzioni... No, Daniele, anche perché il collegamento telefonico non è dei migliori. Dice, non l'unità ci sono... di integrazione elementare del reddito resta la famiglia, non è lo Stato. È vero, infatti i santi nonni, io lo dico subito, sempre. Naturalmente significa che noi però, grazie alle generazioni che hanno accumulato il patrimonio, ma da 20 anni abbiamo iniziato a intaccare il patrimonio accumulato, che come ovvio una volta ma che no, lo intacchi certo, diminuisce, finirà. Eccetera, eccetera. Però ecco, dico a Daniela, poi non voglio entrare in situazioni personali, non lo so, anche buttarsi un po', cioè nel senso che sì, è certo, come tutti quelli che lavorano, è anche vero che tutti quelli che lavorano dal mattino alla sera, riescono in qualche modo a fare, certo, figli e a conciliare, certo, sono vite da così un po' da funamboli, da... sono vite da funamboli. Adesso io aggiungo un elemento, ma non è monocausale, non è fondamentale, però secondo me conta anche un po', cioè il rinvio nell'arco vitale, esatto, di cose tipo i figli, che non sono solo non, perché non si può fare, attenzione, perché vuoi le condizioni ideali, perché perfette, sono un impegno, capito, esatto, un impegno che prende molto, prende tempo, prende testa, prende energia, la modifica di tutte quelle abitudini per le quali la protratta adolescenza, per cui tanti maschi e signori arrivano a 40 anni comportandosi come se ne avessero 15, perdonami, non è un giudizio, certo, no, però no, certo, significa il fine settimana con gli sballi, girare sempre di qua di là. Ecco, quando si fanno poi i piccoli si sa che bisogna fare altre cose. Adesso, scusate, in piccolo questa modifica profonda degli stili culturali e di vita conta anch'essa, oltre al reddito pro capite, e lo capisco, tutto giusto, il welfare che c'è contrario, ostile alla famiglia più che in Francia e più che altrove, è tutto vero, però forse anche un po' la testa e la cultura contano. Sì, sì. Pierluigi ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno entrambi. Ecco. Allora, in merito ai figli, sì, anche io e mia moglie, noi abbiamo 2 figli, avremmo... sarebbe anche il terzo, tuttavia quando metto le mani in tasca vedo che comunque... la scuola alle 5, poi comunque sì, dopo scuola forse arrivi alle 6, noi prima delle 7 non stiamo a casa, quindi comunque ci vuole la babysitter. I nidi, se non lo prendi privato, fino alle 6 non lo tengono, 6:30, anche lì poi ci vuole anche la babysitter. Quindi cioè se uno si fa fatica, dice, si fa fa fatica, la somma di tutto quello che serve, poi alla fine dice sì, alla fine... magari mi fermo a uno e me lo godo pienamente. Però lei Pierluigi ne ha fatti 2, ne siete sopra media, quindi sì, voglio però, dire... cioè, la famiglia italiana, 3, negli anni 50, 60, era il minimo indiscutibile. No, certo. E poi sì, le famiglie numerose sono belle, cioè... E beh, guardi che adesso la fecondità è ridotta a 1,35, sì, quindi voi siete a 2 sono... tenuto conto che il tasso di sostituzione dovrebbe superare a 2,1 per l'equilibrio della, sì, quindi è ovvio che noi diminuiremo sempre di più, esatto. Parte di questo a mio avviso è dovuto, diciamo, al costo, al fatto che comunque le strutture, poi noi comunque, io vengo dalle Marche originarie, noi non abbiamo nonni che ci aiutano, quindi è tutto su di noi, e quindi per forza dobbiamo ricorrere a aiuti esterni. Però insomma, in qualche modo Pierluigi ha anche una risposta a Daniela, che insomma ha una vita impegnata tutto il giorno, ma anche voi, mi sembra di capire, pure 2 figli, insomma, riuscite a farlo. Certo, è veramente, come dire, correre di qua e di là. Però si può fare, ecco. No, per dare un segnale di ottimismo, anche se no è tutto un segnale negativo. Dai, andiamo un attimo in pubblicità, ritorniamo su questo tema, poi parliamo anche di altro, parliamo dei netturbini. Poi posso dirti la grande soddisfazione di un bambino piccolo, sì, che dice papà, sì, è stato ladro, e io dico mi sciolgo, ma, questo, ma voi vi rendete conto? mi sciolgo. Del telefono azzurro, se siete all'ascolto. Come amici del telefono azzurro? Scherzo. Dai, a tra poco. Amici dell'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate. 24 mattino, attenti a noi due. Che meraviglia, eh? 2001, disse nello spazio. Ma tu ricordi il talento di aver messo le immagini iniziali? Il primo quarto d'ora, con le scimmie. Chi siamo, da dove veniamo e di chi siamo peggio rispetto a loro, se posso dire, per tanti versi. Vabbè, diciamolo, oggi è morto, è l'anniversario della morte, 99, di Stanley Kubrick. Ogni filone di tipo, insomma, di opera cinematografica, il capolavoro, dalla critica graffiantissima alla politica con Strano Amore, alla fantascienza, alla filosofia, ai film storici, a quelli, diciamo, del tormento del sesso come l'ultima opera. Comunque, in ognuno un capolavoro. Allora c'è Piero invece che ci chiama da Milano, credo sempre sul tema fare figli, non fare figli. Sì? Piero, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, io sono forse controcorrente perché ho 4 figli. Ale. Olè. Per cui, insomma, volevo portare la mia esperienza. Peraltro li ho avuti, il primo l'ho avuto a 35 anni, per cui insomma mi sono anche divertito. Poi, diciamo. Si è divertito prima e poi dopo ci ha dato dentro dopo. Dentro adesso. Basta forse farlo 4 volte, non è che poi. No, non si butti giù così. No, però. Tecnicamente sì, potrebbe. Se sei fortunati. No, volevo dire che intanto è una gioia avere i figli, vabbè, ho sentito anche. E secondo me, vabbè, conta anche la tranquillità economica, ma fino a un certo punto. Vedo molto egoismo, perché chiaramente avendo figli bisogna rinunciare a tante altre cose. Come diceva prima cioè, voglio dire, un po' banale come concetto. Lo so, ma... che banale. Cioè, voglio dire, la pericena non la fa più lei. Ecco. La pericena non la fa più. Ma no, la pericena, peraltro io ero un cittadino pentito, sono andato via dalla città, insomma, quella... La pericena non lo faccio più, però. Ma per dire la pericena in questo modo, tra l'altro, è un neologismo orrendo per dire quando si va a fare l'aperitivo. Ma esatto, intanto si spizza. Ai miei tempi c'era l'aperitivo, poi adesso è diventato pericena. Però, no, devo dire, però, insomma, ecco, spesso è una giustificazione. È vero che chi magari ha difficoltà economiche, non ha lavoro, è molto difficile, però poi basta, insomma, ci sono anche chi sta normalmente con degli accorgimenti può avere i figli, secondo me. Tipo un accorgimento, uno o due accorgimenti? Ma non so, non avere la macchina, non cambiare la macchina ogni 3 anni, non dover sempre andare fuori a cena, poi dipende, io peraltro, vabbè, mi lamento, però credo queste cose qui, dedicarsi a loro, ecco, io odio, i miei non hanno giochi, insomma, se si va fuori a cena non è che stanno lì col tablet, no, se andiamo, peraltro quando erano piccoli non andavo, perché secondo me per loro è solo una rottura. Se dico così, portare i bambini a 3 o 4 anni al ristorante non si divertono, cioè andavo, si organizzavano in qualche modo, ecco. Poi per esempio io ho avuto le ragazze alla pari per aiutare mia moglie in casa, ragazze alla pari straniere, così hanno insegnato l'inglese ai figli. Bisogna avere lo spazio certo. però insomma mi sembra che Pierluigi si sia attrezzato Piero si sia attrezzato la vita in maniera, insomma, come dire, 4 figli e via, e a lei ci attrezziamo e ce la caviamo, ecco, questo è aiutare, ecco, fuori dalla città, per esempio, talvolta perché non è uguale, non si può generalizzare, però talvolta aiuta. Cioè, la città ha un condensato da una parte di maggiore offerta di servizi apparenti, dall'altra di maggior problematicità per risolverli per i bambini, soprattutto per chi ha redditi non elevati, perché il potere d'acquisto fuori dalla grande città in realtà poi è maggiore. E conta tutto questo, perché quando bisogna iniziare a stare attenti fino all'ultimo centesimo, non lo devo spiegare a te e né a molti ascoltatori, però, come ovvio, avere dei bambini piccoli significa parametrarsi a delle spese che sono necessarie per il vestiario, per le cose da prendere, per la scuola, di qua di là, per le prime attività che iniziano a fare, cioè niente è gratis, c'è poco da fare, e quindi cambia la struttura della spesa elementare mensile, almeno per me come per tutti, ma tutti sappiamo che è così. No, tra l'altro Piero ha raccontato di giustificazioni, no? Quelle che dicevi tu, c'è gente che dà le giustificazioni. A proposito di giustificazioni, guarda che salto carpiato faccio per introdurre il nostro secondo ospite. A proposito di giustificazioni, ne ho lette di alcune un po' bizzarre, di alcuni né turbini di Palermo che sono stati pizzicati lontani dal posto di lavoro. Alcuni. Gentile perifrasi. Tipo, ero al bar, ma insomma, il barista mi ha offerto una bevanda calda. Come che si fa a dire di no? Facevo, che potevo rifiutare. Si offende. Mi sono fermato qualche minuto dal portiere di un palazzo e mi ha chiesto un favore che potevo fare. Ma poi notoriamente che a Palermo qual è il problema? Il traffico, ed ero fermo nel traffico. No, noi vi sorridiamo, ma salutiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Palermo, Sergio Marino. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. E grazie di essere qui perché... insomma, si sono scoperti dove? Alcuni dei netturbini, al bar, al supermercato. Ma insomma, un po' in giro per la città a fare tutt'altro piuttosto che lavorare. Ma insomma, il fatto che vengano scoperti è importante perché vuol dire che c'è un controllo e comunque vengono riprese quelle situazioni che non devono avvenire e che portano poi comunque delle sanzioni o disciplinari o economiche nei confronti degli stessi spazzini. Ci dia due numeri, cioè quanti riguardano, che cosa avete scoperto? Ma guardi, da quando RAP ha rilevato l'azienda fallita nel 2013, già il giornale Siciliano di oggi dà un resoconto abbastanza significativo, sono stati fatti intanto circa 20 licenziamenti. Credetemi che in un'azienda del genere, in un contesto sociale come questo, non è stato certamente facile. Certo. E però siamo andati avanti con decisione proprio per lanciare un segnale preciso a un comparto che aveva alcune parti diciamo malate, nel senso che non malate di malattia fisica, però una malattia comportamentale. Posso fare una domanda proprio su questo? Quando allora, come accade a Palermo, ma come vediamo non è un fenomeno né di Palermo, né della Sicilia, né del Sud, a macchia di leopardo ci sono aree della pubblica amministrazione in cui, come ha detto lei, le situazioni sono andate fuori controllo. Allora la domanda che le faccio, poiché avete dovuto barcare il Rubicone, decidere a un certo punto per riprendere in mano il controllo, bisogna anche esercitare le sanzioni, bisogna per percorrere l'iter disciplinare e fino alla fine, compreso il licenziamento. La domanda che le faccio in particolare è questo, se pensa per un secondo ai colleghi suoi che si trovano in altre parti d'Italia dove ci sono fenomeni fuori controllo. Allora, in particolare, che cos'è che quando si esamina la situazione, contesto difficile, Palermo, motiva alla fine a prendere la decisione? Guardate, o ci decidiamo ad arrivare fino alla fine, compreso purtroppo il doloroso ma necessario licenziamento per quelli che hanno trasgredito, ma anche per far capire agli altri che è finita, diciamo, la cecità, ma che cos'è che alla fine fa decidere a compiere questo passo? Perché io ho l'impressione che questo punto sia esattamente quello che lascia nel dubbio, nell'incertezza e poi priva di sanzioni molti dirigenti o responsabili politici che non se la sentono, perché dicono ma poi figuriamoci le reazioni, chi le fronteggia, nessuno ci capirà. Che cos'è che vi ha fatto decidere adesso basta e andiamo avanti? Ma intanto il termometro della città, quando parliamo di rifiuti c'è una tassa che è la Tari, che viene pagata dai cittadini direttamente per il servizio di rifiuti, per cui il cittadino vuole subito un riscontro, nel senso io pago una tassa, voglio vedere che cosa succede, mentre in genere quando si pagano le tasse finiscono in un calderone e poi se la prende uno comunque col governo, con chi governa, perché non dà servizio. Ma il settore dei rifiuti è un settore dove il cittadino è particolarmente attento perché paga una somma che ritiene abbastanza consistente e pretende un servizio adeguato. Questo si può ottenere soltanto facendo in modo che tutti facciano la loro parte, dal presidente al direttore ai dirigenti a scendere fino allo spazzino. E quindi chi governa, chi ha il dovere anche di garantire che le persone lavorino al massimo le proprie capacità, fornendo loro tutti gli strumenti necessari, è chiaro, perché se non si danno strumenti come apparecchiature, come scope, come divise, è chiaro che poi lo spazzino ha tutte le ragioni per non poter lavorare bene. Bisogna tutti lavorare di concerto per fare in modo che il servizio migliori continuamente verso un obiettivo globale di miglioramento del decoro urbano delle città e di Palermo in particolare. Insomma, diciamo che non è facile certamente arrivare a questo provvedimento Non è stato facile, mi credo. Ma è stato facile almeno dal punto di vista tecnico, perché sa, i sindacati, per esempio, come ci sono i ricorsi. I licenziamenti risalgono un periodo in cui ero presidente della RAP, poi sono stato dal sindaco promosso, tra virgolette, assessore. E mi creda che il contesto di Palermo e il contesto di alcuni, la provenienza di alcuni di questi soggetti, certamente in una città come Palermo bisognava stare attenti. Però insomma io con la forza della ragione e con i sindacati hanno fatto buon viso a Cattivo Gioco, perché quando si prende uno spazzino che col mezzo pubblico va a fare cose private, il licenziamento è un fatto obbligatorio. Per esempio quello beccato in centro commerciale con la moglie, la dovevo incontrare per ragioni urgenti, sì, ha detto. Però, però assessore, ci sono anche le persone che effettivamente dicono ma ero a prendere un caffè al bar 5 minuti, cioè, guardi, c'è la possibilità di avere un ristoro? Guardi, bisogna saper distinguere, perché io che lo spazzino prende il caffè non c'è niente di male, perché lo prendiamo tutti e credo che non sia questo il problema. 5 minuti del caffè non è questo l'importante, è il resto di tutte le ore del lavoro, perché se uno lavora 5 ore e mezza e poi mezz'ora si ferma, perché di fare lo spazzino è un lavoro pesante, bisogna anche riconoscerlo, non è un lavoro comodo stare in ufficio col computer e fare, no? Fare lo spazzino è un lavoro pesante, certo, devono farlo, devono farlo bene, per cui il caffè non credo che sia un fatto di cui bisogna allarmarsi, perché non è il caffè che certamente può determinare poi se la città è pulita o sporca, sono altre, certo, al centro commerciale e la gravità mi sembra molto più importante. E questo, no? Sì, e questo sì. E va bene, poi in tutto questo c'è che il servizio ovviamente deve essere garantito per tutti i cittadini che pagano fior di tasse e quindi, insomma deve essere garantito. Va bene assessore, noi la ringraziamo, grazie per essere stato continuate assessore, alla prossima. Assessore all'ambiente del Comune di Palermo, Sergio Marino. Questo per segnalare poi anche che non ci occupiamo solo ovviamente di denunciare le cose non vanno, no, funzionano. Lì per esempio chi si muove va segnalato e bisogna parlarne. Anche perché c'è una via quindi che si può percorrere, no, questo... Teoria. In pratica, secondo me, molto spesso ci si ferma prima per una serie di ragioni, ma ci si ferma prima. Anche perché sono voti, dillo, Scatola dice, sono voti, sono, è innegabile, cioè, sono, vuol dire mettere... La macchina comunque... pubblica è fatta così, fatta di interessi, come si vede, adesso vedranno poi i giudici, anche nella vicenda Consip PD, vedranno i giudici, ma l'inopportunità di questo aforismo trasversale e la sua diffusione e pervasività è evidente, c'è poco da fare. E mi dispiace dirlo, anche il fatto che le procure siano evidentemente anche lì nel dritto tra loro, abbiano sollevato i nomi dei carabinieri perché sospettati con qualche prova, perché insomma prima non si, altrimenti non si muoverebbero sui carabinieri, sollevandoli dalle indagini di polizia giudiziaria perché sospettati di fare, di violare il segreto d'ufficio, quando c'è il comandante generale e il comandante dell'arma di una, in una regione, sospettati anch'essi di avvisare i politici, insomma è un bel quadretto quello che esce, poi vedremo come sempre, però è un bel quadretto. In ogni caso, noi ringraziando Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Peter Vescafè regia, musica, ci troviamo eterna, con questo tono un po' glorioso, grande Strauss, ma non quello dei Walzer, l'altro, questa è musica eterna, ragazzi, è come sono i Carmina Buona di Carror, è il richiamo cosmico dal nulla verso nulla, il ponte su cui siamo nella nebbia in cui avanziamo. Un caffè per me, grazie, normale. A domani. E via così.